Confesso che quando la notte del 31 dicembre ha cominciato a circolare la notizia dell'attacco a colpi di treppiede al Presidente del Consiglio, non mi sono affrettato a scandalizzarmi, come tanti altri compagni pensosi della responsabilità della sinistra, compresi, mi dicono, i conduttori della nostra radio. Sì, è una vita che mi considero non violento, ma una volta accertata la pochezza dei danni inferti e subiti, e appurato che l'episodio rientrava più nei canoni dell'euforia da alcol che in quelli della cospirazione politica, beh, mi era sembrato che un mezzo sorriso ce lo si potesse concedere. Il principio per cui qualsiasi trasgressione ai codici della morale va trattata con la stessa severità, a prescindere dalla portata e dalle conseguenze, perché nulla distingue veramente dal punto di vista etico il furto di uno spillo dalla rapina a Fort Knox, è uno di quei paradossi degli stoici sui quali già gli antichi erano perplessi e che Cicerone, tra gli altri, ebbe modo di confutare. E se non è il caso di presumere che abbia familiarità con Cicerone gente come Bondi e Cicchitto, che su tesi del genere un poco si sono sazzardati, qualcosa di più avremmo potuto aspettarci dai leader della nostra coalizione, almeno da quelli che vantano un titolo accademico. Ma probabilmente erano tutti troppo occupati a discutere con Mastella. Bondi e Cicchitto, peraltro, nell'ansia di ribaltare sullo schieramento avverso, il nostro, tutta la responsabilità di quel povero episodio, hanno evocato l'immagine di una sinistra talmente accecata dall'odio antiberlusconiano da cadere preda di una vera e propria coazione al male, di una sorta di irresistibile frenesia di nuocere. Ora, non c'è chi non veda quanto questa interpretazione sia un po' di fantasia. La sinistra sarà anche accecata dall'antipatia per il cavaliere, francamente è difficile darle torto, ma l'unico male che riesce a produrre ogni volta è quello che fa a se stessa. L'atteggiamento generale dell'ulivista medio, se permettete, mi sembra pericolosamente simile a quello dello stesso aggressore di Piazza Navona, che svaniti i fumi dell'alcol e passato in un amen dal virile io l'odio con cui aveva all'inizio motivato il suo gesto, a quel flebile non so cosa mi abbia preso, mi scusi, che ha offerto all'uomo di Arcore la preziosa occasione di mostrarsi ancora una volta magnanimo. Perché sarà un caso, ma ogni volta che si manifestano frizioni di questo tipo lui ne esce sempre benissimo e noi restiamo qual più qual meno in braghe di tela. Certo, a ciò ci aiutano in molti, Per esempio, quel magistrato, che pur rivestendo qualche responsabilità negli organi rappresentativi della sua corporazione, e pur essendosi abbastanza esposto nel recente passato nelle polemiche con il governo, ha sentito, pare, il bisogno di trasmettere ad amici e conoscenti non so quale SMS in cui si scherzava sul fatto. E poi, ma naturalmente non sta nello scherzo, che è sempre lecito, e poi potrebbe aver letto Cicerone anche lui, ma nella scelta dei destinatari, uno dei quali evidentemente doveva essere abbastanza infido da girare seduta stante quel testo a un deputato di AN, con tutte le conseguenze del caso. Beh, basterebbe un errore di valutazione del genere per farci concordare con quanti hanno consigliato a quel giudice di dare alla svelta le dimissioni. Ma non sembra, ahimè, che abbia intenzione di farlo, né che gli siano giunti da parte degli oppositori del ministro Castelli consigli in tal senso, perché la magistratura, si sa, non sbaglia mai. In che mani siamo caduti, amici? In che mani? Temuto di doverlo fare fin dall'inizio, e man mano che i giorni passavano e man mano che cresceva l'imperativo morale di doverlo fare, cresceva in me un forte senso di depressione, la noia mortale del già detto, il fastidio fisico del già detto e ripetuto, il dolore angoscioso della consapevolezza di averlo detto invano e la rabbia furiosa di doverlo ridire ancora una volta invano. Momentaneamente sepolti dal ridicolo gli assertori di una storia oggettiva, il partito di coloro che ci dicono come sono andate realmente le cose, oggi spadroneggiano gli assertori di una storia relativistica, stando ben attenti attenti a non dichiararsi come il partito di coloro per i quali alla storia può essere fatto dire qualsiasi cosa, ma pronti, prontissimi per l'appunto, a giustificare qualsiasi cosa purché a loro torni qualcosa in tasca.